Mix 24 di Giovanni Minoli. Oltre 3 terabyte di dati sensibili su 200.000 società offshore, 11 milioni e mezzo di file segreti che rappresentano la più grande fuga di notizia nella storia della finanza. Li hanno chiamati Panama Papers. 11 milioni di documenti che sono stati ottenuti da una fonte interna allo studio legale di Panama, Mossack Fonseca. Un uomo difficilmente sarà se stesso se parla in prima persona. Ma se gli date una maschera, lui vi dirà la verità. Panama Papers è la più grande fuga di notizie che fa tremare il mondo. 1500 volte la portata dei file resi pubblici da WikiLeaks. Generale Mario Mori, buongiorno, ex comandante del ROS, ex direttore del SIST. Ecco, generale, le rivelazioni dei Panama Papers possono essere considerate sostanzialmente l'inizio di una, o comunque una nuova tappa di una infoguerra? Ma è tutto è possibile, perché non accadono mai a caso queste vicende e si sviluppano quindi secondo anche delle direttrici abbastanza caratteristiche. Cioè? Abbastanza caratteristiche, cioè? Nel senso che sono punteggiate da successive rivelazioni finché si arriva al punto nodale. Una cosa stamattina, sentendo la radio, mi sorprendeva. Sono usciti fuori altri nomi, praticamente ci sono un po' tutti, manca solo la componente americana. Ecco, era proprio quello che volevo chiederle, ma com'è che sti americani bravissimi, cioè non tutti onestissimi, una cosa fantastica. Guardi, c'era un noto personaggio politico italiano che diceva che dubitare è sempre meglio che non dubitare. Io dietro ci vedo, sarà per deformazione professionale. Lo zampino di qualche servizio. Lei ci vede lo zampino della CIA, come dice Putin? Beh, direi di sì, perché insomma hanno colpito tutti, mancano solo loro, insomma. Soltanto. E poi soprattutto una cosa che colpisce è che proprio in questo momento, Obama ha chiesto il massimo di trasparenza a tutto il mondo. Certo. Però negli stati americani questa trasparenza non è proprio garantita al massimo. Sì, no, io alla fine non mi meraviglierei che uscisse fuori magari qualche personaggio politico in questo momento imbarazzante dal punto di vista dell'America. Quindi... Hai in mente qualcosa? No. È sempre così un'ipotesi, insomma, no? Ex capo, ex direttore del SIST, qualche ipotesi in più di quelle che facciamo noi, guardi, ce l'avrà. In questo momento in America molta gente non vede di buon occhio Trump, il personaggio è quello che è, vive, ha un potentato economico, è facile attaccare quindi, uno come Trump, no? Ah, quindi lei dice, cioè, la pista Putin è una falsa pista, in realtà potrebbe arrivare da un'altra parte alla fine la storia. Basta, guardi, in queste cose bisogna essere preparati a tutti. A tutto. Quando poi si può colpire più obiettivi, tanto meglio. Meglio, no? Ancora. Lei si è mai trovato di fronte a casi simili che ha dovuto gestire? No, di questa natura no, direi proprio, ecco, non mi vengono in mente casi simili. Ecco, generale Mori, lei ha scritto un libro intitolato Servizi Segreti, Introduzione allo Studio dell'Intelligence. Sì. Una delle prime lezioni per una spia è quella di capire il famoso qui prodest, no? A chi, certo, servono le informazioni, è così? Certo. E questa è la chiave da usare anche nella lettura di questa situazione? Da questo fatto poi si possono fare deduzioni logiche, altrimenti se non si sa dove va a arrivare la vicenda e dove può partire, è difficile individuare i protagonisti. Però intanto, strada facendo, morti e feriti, perché anche questa uscita distillata delle notizie provoca un'attenzione continua e contemporaneamente si fanno uscire i nomi che si vogliono colpire. Ma lei me lo insegna, lei è un gran giornalista, quindi le notizie vengono date con con un certo criterio e un certo ordine temporale, se no la notizia muore. Se no non c'era sceneggiatura, diciamo. Senta, ma volevo dire, intanto una lista però delle conseguenze è una lista, già comincia a prendere un certo corpo, perché David Cameron è in difficoltà proprio nel momento decisivo della campagna sul Brexit. Si è dimesso il primo ministro islandese, numerose banche asiatiche e europee sono sotto accusa, Putin l'abbiamo detto, cioè Putin che ha vinto, perché il problema è che Putin ha vinto la guerra, ha liberato Palmira e ha dimostrato che si poteva fare, no? Certo. Quindi indubbiamente sono colpiti dei personaggi che in questo momento sono sulla cresta dell'onda. Cioè meglio depistare, insomma. Sì. Cioè concentrare l'attenzione su di loro, diciamo. L'unico consiglio che do è quello: aspettiamo e vediamo dove va a finire la cosa. Però lei già una piccola indicazione ce l'ha data, un'ipotesi, no, un'ipotesi che rientri nella guerra. È il mestiere di chi ha fatto il mio mestiere, insomma. Senta, generale Mori, ma quando una spia cattura informazioni riservate è obbligato a mantenere il segreto? Beh, teoricamente sì. Assolutamente, però Watergate per esempio ci insegna il contrario. Prego? Watergate però ci insegna il contrario. Sì, perché poi nelle vicende umane ci sono sempre i contrasti personali che danno luogo alle falle, ai buchi, e anche nelle migliori organizzazioni si verifica poi per quelle aperture e quelle deficienze informative che creano il caso, come tipo il Watergate e tanti altri. Senta, generale Mori, ma la fedeltà e l'efficienza dei servizi segreti a questo punto diventano uno dei pilastri dello Stato democratico, che potrebbe essere... Sì, vede, io sono molto critico con il modo politico. Non sentiamo bene, generale, non la stiamo sentendo bene. Pronto? Pronto? Così di nuovo, sì, stava dicendo, ecco, scusi. Io dicevo, sono molto critico nella gestione dei politici italiani rispetto ai servizi. Perché? Mi dica. Le spiego perché. I servizi, come dice lei, è uno strumento delle istituzioni statali, è uno strumento anche molto delicato, che funziona se gli dai la possibilità di funzionare. Vede, le leggi che regolano i servizi vanno più o meno bene, si possono migliorare, ma no, non è quello il problema. Il problema è dare ai servizi degli obiettivi precisi, certo. Mettere a capo dei servizi gente qualificata, trovare nell'ambito del mondo politico gente che sia in grado di valutare la professionalità e l'attività del servizio, se no non serve a nulla. Non si può mettere uno che ha fatto l'avvocato a gestire politicamente un servizio, non ne capisce nulla. Certo, questo vale per tante cose. Un ottimo generale dei carabinieri, un ottimo prefetto che ha fatto tutto un altro mestiere e poi ha dirigito i servizi. Certo. Guardi, io le faccio un esempio. Faccia un esempio, faccia dei nomi, così ci capiamo meglio. Guardi, io quando dirigevo il SISD avevo come omologo in Inghilterra, sì, l'MI5, signora Manninger, sì, che era direttrice del servizio. Bene, la Manninger era entrata nel servizio all'età di 27-28 anni, dopo la laurea. C'aveva più o meno la mia età quando dirigeva il servizio e conosceva fatti, vicende, persone di 30 anni di vita nazionale. Non era veramente un direttore del servizio, certo, con un vantaggio, con un grande vantaggio, che lei diceva sempre: io non sono il direttore del servizio di Tony Blair, io sono il direttore del servizio di Sua Maestà la Regina Britannica. Certo, la fortuna di avere la regina in quel caso. Capito? Ho capito benissimo. Bene, insomma, quindi di fronte a questi rinnovi dei servizi che sono alle porte, lei dà il consiglio: professionisti. E soprattutto, quando uno viene fatto e va bene, non si deve cambiare ad ogni cambio di impostazione politica di governo. Qui in Italia succede che arriva un filone politico e viene scelto un proprio direttore. Certo. Cambia il filone politico, cambia la maggioranza di governo, se ne fa un altro. Non va bene. Ecco, non va bene. Il direttore di servizio è... Ha al servizio dello Stato, certo. Prescinde dal colore politico del governo. Perfetto, grazie generale Mori. Prego. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Insomma, Mario, mi pare che è stato molto chiaro il generale. Forte, mi ha fatto morire quando ha detto: ma non mi stupirebbe che ci fosse una mano di un servizio segreto. No, bella. No, soprattutto... E il prossimo a entrare nell'elenco sarà Trump. A questo Mi pare che ce l'ha detto. Già anticipazione, se fosse vero, abbiamo fatto uno scoop alla Vespa. No, molto interessante, bravo. Ecco, ma no, di. No, cioè, io mi ricordo WikiLeaks. No? Ecco, di WikiLeaks rispetto ai paper di Panama. Ma insomma è uguale nelle modalità, un po' diversa negli obiettivi. WikiLeaks, ricordo, io fui anche fortunato perché lo pubblicai per primo In Italia fu Mario. I file italiani, italiani. No, bravo, vabbè, ma fu un caso. Ma sei come Vespa, dai. Peggio. No, vabbè, però per spiegare la dinamica. Sì, sì. Fonte, no? Una telefonata, anche un po' casuale, se vuoi. Check veloce e pubblicazione. Poi uno dovrebbe chiedersi: ma perché mi ha telefonato? Perché mi ha telefonato? Lo sei chiesto dopo averlo pubblicato. Beh, certo, chiaro. Non ti puoi chiedere troppo cui prodest, no? In questo caso, se no non fai il giornalista. No, se no non pubblichi più niente, quindi non pubblichiamo. Però il fatto anche di essere spesso strumentalizzato, abbiamo visto questo connubio tremendo fra informazione, per esempio, e magistratura, in Italia ha fatto anche, oltre a informare, ha fatto anche dei famoso, danni. Ha fatto dei danni, ha fatto cadere governi quando forse potevano stare in piedi, tanto per dirne una, di destra e di sinistra, poi, o di centro-destra e di centro-sinistra, se volete. C'è solo un limite, secondo me, Giovanni, in queste storie qua, siccome tante volte ci siamo trovati di fronte a situazioni del genere. Quando c'è in gioco la sicurezza delle persone e dello Stato. In quel caso, secondo me, insomma, siccome c'è un confine delicato, non ci devi pensare 10 volte, ma 100 volte prima di farlo. Ecco, Pietrangelo, noi siamo di fronte, comunque ce l'ha detto il generale, in ogni caso si capisce, una destabilizzazione continua attraverso queste rivelazioni. Noi abbiamo fatto anche delle ipotesi, insomma, bisogna coprire il fatto magari che gli americani hanno perso dove potevano vincere, dove hanno dimostrato di non saper vincere. Il quadro medio orientale è sempre più fragile nel corso degli anni, e questo naturalmente questi elementi di guerra informativa continuano il loro gioco di destabilizzazione. Tu come la vedi? Cioè, che cosa c'è, il cui prodest è dietro, visto che di quello parliamo? Come lo vedi? Il cui prodest è presto spiegato: giova soltanto a chi ha la possibilità di tenere la matita in mano, ed è sempre questione di matita. Ricordiamo che tutto il Medio Oriente è stato disegnato in epoca precoloniale, post-coloniale, con la squadra della matita, che ha stabilito dei confini prevalentemente finti, che hanno messo insieme situazioni diverse e che hanno creato poi quella eterna maionese pronta a impazzire di volta in volta ad assecondare le crisi internazionali. Lo abbiamo visto alla fine della Prima Guerra Mondiale, lo abbiamo visto accompagnando la Seconda Guerra Mondiale, è stata a custodire, a fermentare per tutto il periodo della Guerra Fredda, adesso è nitroglicerina pura a disposizione di chi sappia gestire le scimmiette ammaestrate a disposizione di tutti i giochi costruite. Tant'è vero che il Medio Oriente è quello che sta capitando, infatti. Ecco, tornando ai Panama Papers, Claudio Gatti è un giornalista investigativo, autore di moltissimi scoop, inchieste importantissime per il Sole 24 Ore, si è occupato anche lui dei Panama Papers. Ecco, Gatti, i Panama Papers sono parte di un'infoguerra globale tra grandi potenze, oppure no? Sono solo inchieste giornalistiche? Assolutamente di no, per il semplice motivo che, come in altri casi di cosiddetti leaks, è stato puramente casuale che una persona che chiaramente aveva accesso ai server di Mossack Fonseca li ha offerti al giornale tedesco. Ecco, tu hai scritto dello studio Mossack Fonseca, hai scritto che è una vecchia conoscenza, mi spieghi perché ai nostri ascoltatori? Diciamo, i professionisti della gestione di fondi neri da ormai almeno un paio di decenni sanno che le vecchie formule, e la principale per gli europei era quella del conto in Svizzera, non bastano a proteggere capitali di cui non si vuole lasciare traccia. In questo caso la formula adottata e che è stata scoperta in realtà è una formula che viene usata da vario tempo ed è quello della costituzione di società anonime offshore che poi detengono i conti in Svizzera o in Liechtenstein o in altri posti. Ecco, gli Stati Uniti prima sono stati bersaglio della diffusione di notizie riservate, no? In altri casi. Adesso sembrano invece blindati da questo punto. Siamo dalla parte rovesciata. Cioè, la Russia non ha perso tempo a dire che c'è la mano della CIA, però non ci sono americani in questo elenco, non è un po' strano? Non è detto che non ci siano. Nel no, senso dico che... in quelli che sono usciti finora, diciamo così. Non sono usciti ancora nomi di americani, ma pensare che le maggiori testate mass media del mondo, che vanno dalla BBC al Le Monde, a testate in un'altra quarantina di paesi, siano tutti agenti della CIA è una follia. No, naturalmente. Il fatto che però gli elenchi privilegino almeno finora personaggi che non sono americani è una cosa che colpisce, come se si immagina che tutti americani sono in regola e nessuno si occupa. Ma è una visione complottistica che non condivido per il semplice motivo. Spiegami. Che i giornalisti di tutto il mondo vanno sui nomi più importanti, sì. Per questo sono andati su Putin, sono andati su Cameron, se ci fosse stato Bush o Obama, l'avrebbero ti detto. Garantisco che sarebbe venuto fuori, e non escludo che venga fuori. Ecco, in questo modo per un giornalista 11 milioni di documenti sono quelli del caso del Panama Papers, per lavorarci sopra ci vuole un consorzio di giornalisti, è difficile fare il giornalista da solo in questi casi. Assolutamente sì, ed è questo il motivo per cui il quotidiano tedesco si è rivolto a il consorzio di giornalisti investigativi. Io stesso la settimana scorsa ho scritto un pezzo su un leak ottenuto da una fonte che aveva contatti con un giornale australiano e ci siamo messi in un consorzio di 3 testate a lavorarci ed erano soltanto, tra virgolette, 3 o 4 decine di migliaia di messaggi di posta elettronica da gestire. Ecco, quindi tu, diciamo, oramai lavori abitualmente in pool su questo tipo di obiettivi. Questo tipo di inchieste è quasi impossibile fare da soli. Ecco, il lavoro diventa più delicato, no? Credo. Si rischia... Diventa più delicato, ma ci sono anche più filtri, anche più teste pensanti, anche c'è la capacità di avere di verificare di più e meglio su sospetti, perché spesso e volentieri in questo caso quando si analizzano email si possono fare degli scenari che poi invece si dimostrano non essere veritieri. Quindi più persone, più incrocio di verifiche, ecco, quindi per decidere che cosa pubblicare o che cosa no, diciamo, il fatto di essere in tanti aiuta nella chiarezza del lavoro, diciamo. Esattamente. E ognuno di noi ha dei referenti, degli editor, dei direttori, dei capiredattori che anche contribuiscono, quindi da questo punto di vista, diciamo, per il lettore è una garanzia in più. Ecco Gatti, dentro i documenti di Panama però, lasciami fare il complottista, c'è il nome del capo della FIFA, naturale, se no non faccio il mio mestiere. Il capo della FIFA di ieri, Blatter, oggi Infantino, Putin, si ricordano tutti, ci ricordiamo tutti, ha difeso Blatter. Anche lo sport in qualche modo, comunque negli anni della Guerra Fredda lo è stato, è parte di questo scontro anche geopolitico. La Guerra Fredda ci ha raccontato poi di come questo fosse vero. Io insisto nel dire che questa di Mossack e Fonseca era un'opportunità per chiunque volesse proteggere i propri fondi o volesse nascondere dei soldi. È chiaro che ci sono persone in tutti i settori, dallo sport alla politica, dall'economia alla finanza, chi siano, che in questo caso ci sia Infantino, penso che sia puramente casuale, e di nuovo il fatto che ci siano una quarantina di testate giornalistiche, anche diciamo con posizioni politiche diverse, perché tra gli inglesi c'è sia il Guardian che il Sunday Times, uno di sinistra e uno di destra, diciamo fa da garanzia. Ecco, proprio il Guardian oggi titola: lasciate perdere Panama, è più facile occultare il denaro negli Stati Uniti che altrove, no? Cita il Delaware. Assolutamente vero, io stesso feci un'inchiesta uno o due anni fa sul Sole 24 Ore sul fatto che uno dei più grandi paradisi fiscali del mondo è proprio negli Stati Uniti, il Delaware il primo, ma anche il Nevada, tutti stati in cui è possibile costituire una società assolutamente anonima, di cui è impossibile sapere il vero proprietario. Ecco, quindi Gatti, Obama che dice che occorre eliminare i paradisi fiscali pensa soprattutto agli altri, non a quelli americani, però. Diciamo che non pensa allo stato del suo vicepresidente, il Delaware. Se l'è dimenticato, diciamo. Assolutamente. Quindi, secondo te, non si tratta di infoguerra, ma semplicemente di giornalismo che ha fatto un salto di qualità nel modo di affrontare delle fonti più complesse. Assolutamente sì. La joint venture editoriale mediatica permette di gestire, elaborare dei quantitativi di informazioni che altrimenti avrebbero schiacciato chiunque. Quindi la globalizzazione da questo punto di vista offre una chance di trasparenza in più. Assolutamente sì. Abbiamo al telefono Roberto. Roberto da Ascoli. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Dica. Sì, da Ascoli Piceno. Sì. Niente, volevo un attimino intervenire lì sull'intervento del generale Mori. Sì, no? Dica. Innanzitutto, chiaramente molto interessante. E, più che altro sull'ultima sua cosa che ha detto, cioè che i servizi segreti, cioè il direttore dei servizi dovrebbe essere al servizio dello Stato e non delle singole e dei singoli governi. Di turno, in poche parole, insomma, sì. Ecco. Niente, volevo solo dire che sono chiaramente d'accordissimo. Bene. Ma che la cosa potrebbe essere estesa anche a tanti altri asset. Certo. Tra i tanti la TV pubblica, ad esempio, certo. Che dovrebbe essere una TV a servizio del cittadino e non del consumatore solo o del partito che governa. Esatto. Vabbè, dipende dalle leggi con le quali si nominano i consigli di amministrazione. Se sono leggi che fanno riferimento ai partiti, naturalmente è una conseguenza automatica. Purtroppo. Sì, grazie Roberto. C'è anche Maurizio Urbano che dice più o meno la stessa cosa: in Italia non devono essere servitori dello Stato e non servi del padrone di turno. Siamo d'accordo, è quello che abbiamo detto. Mario, sì. Mario, tu hai parlato all'inizio di Infowar, sì. Cioè di guerra dell'informazione. Gatti invece abbiamo sentito, parla di un nuovo modo di fare giornalismo di gruppo nel mondo globalizzato, senza una ricerca globalizzata, dice Gatti, non si riesce più a dare notizie. Insomma, sono due facce dello stesso problema. Sì, ci sono tutte e due. Bisogna vedere cosa fa sempre la fonte. Il qui prodest resta sempre la vera stella polare. E comunque no? L'interrogativo bisogna porselo, poi bisogna lavorare sui fatti. La cosa interessante dal punto di vista del mestiere è che è cambiata, è che prima ragionavi sulla notizia e su una certa quantità di fatti, diciamo. Oggi lavori su quantità di dati enormi, cioè noi parliamo di megabyte, gigabyte, terabyte di dati, in questo caso 11 milioni e mezzo di documenti. L'altro aspetto che vorrei segnalare è che da quando sono partiti i leaks, primi Pentagon Papers, Watergate e così via, questa cosa è aumentata di intensità, sempre di più. E si intreccia con un tema enorme sulla sorveglianza di massa, secondo me, che ha sollevato, secondo l'ex direttore del Guardian, in una recente conferenza, 150 problemi irrisolti sul piano della privacy, del giornalismo, del rapporto Il rapporto fra informazione e giornalismo è sempre più serio. Volevo però farti una domanda, Pietrangelo. Abbiamo parlato in questo caso, anzi si sente parlare, nel caso di Regeni, sente parlare di una fonte. Parlavamo di fonti, ecco, questa fonte, come la dobbiamo prendere? Perché questa fonte anonima è quella che di attacca il governo, dice certo. C'è stato il generale, è stato questo, è stato quello. Come si fa? Io temo che la fonte, sempre più, a maggior ragione in questa fase storica, quella che stiamo vivendo, è una centrale di potere che determina l'informazione e fa la sua guerra. Tant'è vero, se vogliamo usare a riferimento quello che l'opinione pubblica italiana sa grazie alle fonti che determinano la capacità di informazione, l'opinione pubblica italiana, per esempio, nella fase più delicata che stiamo attraversando in politica estera, non sa chi sia Qassem Soleimani, che è il comandante che sta combattendo duramente il terrorismo dell'ISIS, quelli che stanno liberando Palmira. Non si è saputo mai chi ha liberato effettivamente Palmira. Poco si è saputo, non si sa, non si noi sa, l'abbiamo detto più volte. Non si sa chi ha liberato la città di Malula e le città cristiane di Siria. Non si sanno tante di quelle cose in politica estera e in politica interna. Voglio fare un esempio: nel frattempo che abbiamo avuto rotta l'anima per più di 2 mesi sulla questione dell'utero in affitto, delle unioni civili, di tutte le discussioni delicate, le farfalle sotto l'arco di Tito, nel frattempo non sapevamo e nessuno diceva che piazzavano i droni nella base di Sigonella. Cioè le notizie più importanti ovviamente vengono occultate. Quindi sta benedetta fonte. Appunto, sta Che mobilita la collaborazione tutti i giornalisti, no, in realtà li fa collaborazionisti. No, ma per non essere collaborazionisti, ma per avere le notizie, il problema esiste, Mario. Fare per esempio, Giovanni, quello che posso aprire una parentesi di orgoglio, quello che facciamo in questa trasmissione, dando le notizie, raccontando anche l'altra parte del mondo, col rischio di essere o criminalizzati o ridicolizzati. È la cosa che fanno da sempre. Posso intervenire sommessamente? Sì, io propongo di chiudere con una canzone che dà una certa atmosfera. Che dici? Io ti dico, chiudiamo. Senti qua, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Mi sembra una bella idea. Ennio Morricone, un gigante, sentite. .024 per chi vuole telefonare e intervenire, 349-238-6666 chi ci vuole scrivere un sms. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, ecco. Che ci fai sentire oggi? Arriva. Your eyes are burning, hostile. I'm burning clean. 20th century gold sleeve. Your Pleistocene. That is obscene. That is obscene. Allora il sole ha preso la scossa stamattina e con tutta l'elettricità del suo risveglio, bruciando di adrenalina come fosse benzina, non ha avuto altro pensiero il solo che prendersi Diana Cacciatrice, farne stella per oscurare stanotte la luna, e ha chiamato il lupo, ha voluto questo brano per dedicarlo a Cappuccetto Rosso, che oltretutto Cappuccetto Rosso indossa un paname, dicendole: posso mettere i fiori di ciliegio sul tuo maggiolone? Giovanni, da quando abbiamo parlato del maggiolone, hai visto, no? Pietrangelo si è scatenato. Un giorno chiederò alla Volkswagen cosa aveva immatricolato per lui. Oh, però vorrei notare, Fiat niente. No, niente. Dai, dai. Sei mica un proletario. No. Lui è chic, chicchissimo. Lui è chicchissimo. I nemici d'Italia. Vai. Vabbè. Vai, Mario. Vi faccio sentire una cosa. Silenzio, please. Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. Infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Giovanni, sai, io stamattina mi sono svegliato con un grande dilemma. E qual era? Ma Vespa che cosa doveva fare? Perché sai, io da ragazzino mi è capitato di intervistare Mesina, che ancora trafficava il bandito con un sacco di cose, e abbiamo fatto, no? Pensa a chi ha intervistato il maestro di tutti noi, Enzo Biagi. Qualunque mafioso del mondo era una preda di uno scoop. Ligio, di... Buscetto. Allora, tutti. Mi chiedevo appunto che cosa doveva fare. Poi ti dico la verità. Ho letto una dichiarazione del presidente del Senato, Pietro Grasso. Cosa ha detto? Dice che non avrebbe guardato Porta a Porta. E tu cosa ne pensi? Ma penso che avrebbe avuto uno spettatore in meno, Bruno Vespa. Ma scusa, non mi sembra molto di più. Però dai, dai, parliamo di servizio pubblico, ti prego, dimmi cosa ne pensi. No, dai. Io penso che, dato che la televisione di Stato, cioè la RAI, è una televisione commerciale finanziata dal canone, fino a che non ci dicono che cosa è di diverso il servizio pubblico e quindi che cosa può fare o non fare, penso che il presidente Maggioni e il direttore generale Campodall'Orto oggi in commissione sicuramente faranno il quadro esatto di che cosa è il servizio pubblico, ma fino a quando questo non è dichiarato e non è esplicito, è normale che chi fa un programma cerchi di fare il massimo dell'ascolto, perché non ho ancora conosciuto un direttore di giornale che pubblica il suo giornale sperando che nessuno lo compri. Come quelli della decrescita felice. Ecco, decrescita felice in campo informativo non giova a nessuno. Mi pare chiaro. Ecco, e quindi questo tu ti aspetti chiarezza, finalmente? Io mi aspetterei chiarezza, non sono sicuro che questo possa arrivare, perché solo lì si potrà dire qual è il livello di responsabilità civile, sociale, informativa che gli operatori del servizio pubblico devono avere a differenza degli altri operatori. Ma fino a quando la televisione pubblica è in realtà una televisione commerciale a finanziamento pubblico, l'equivoco è troppo grosso. Pietrangelo, scusa, questo è il tuo campo da gioco, io mi sono permesso di invaderlo. Immagino tu abbia qualcosa da dire. Esiste il servizio pubblico? Parafrasando Luciano Ligio quando gli fecero la domanda «Ma esiste la mafia?» rispose «Se esiste l'antemafia, e quindi esiste il servizio pubblico, se esiste il non servizio pubblico». Per adesso si confondono molto. Salamino! Carina. Mafia o antimafia? Il dilemma di primavera, sfogliando la Margherita, è questo. È mafia o antimafia? È mafia o antimafia? Paolo Mieli oggi sul Corriere della Sera, firma il fondo dal titolo La profezia di Sciascia e il caso Confindustria. In sostanza si consiglia al presidente uscente Giorgio Squinzi di far dimettere il suo proconsole di Sicilia Antonello Montante. E il dilemma di primavera resta sempre quello. Mafia o antimafia? Sempre Paolo Mieli? Paolo Mieli suggerisce questo, però il dilemma è sempre quello. Mafia o antimafia? Voi avete a disposizione queste margherite? Sfogliatele. Mario, invece di fare al solito mama, fai così. Non mama, quindi non c'è problema. Perfetto. Mafia o antimafia? Il concetto qual è? Il malaffare siciliano ha fatto proprie le insegne dell'antimafia. E domani a noto... ci sarà gran festa. Ho messo l'inno nazionale apposta perché domani ci sarà il capo dello Stato. Ecco, forse ho sbagliato inno. No, è giusto, no? È questo. Questo, sì. No? Non lo so, ma non so. Qual è il problema? Sei tu e la tua colonna sonora è molto personale. La fai risentire bene. Ecco, sì, sì, è a Marcia Reale, giusto. Dai. Segno delle due Sicilie. No, allora mettiamo l'altro. Allora, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che incidentalmente è anche siciliano, secondo il Corriere, dovrà giustamente evitare di stringere le mani a personaggi imbarazzanti. Allora, saluterà di certo il sindaco, cui va l'orgoglio dello straordinario restauro della cattedrale dopo il crollo. Saluterà il pittoresco governatore Crocetta, che per l'occasione, caro Giovanni, sarà lontano dagli studi televisivi dell'Arena di Giletti. Vabbè, dai, tu mo, un fatto personale. No, fatto personale, insomma, va lì e... vabbè, è certo, normale. È normale, certo. Poi come si sparano le frascole, vabbè. Hai visto quello che fa Vespa? I livelli sono diversi. No. Ah, sì, è vero. Il pittoresco è il pittoresco. Allora, però dice il capo dello Stato deve evitare, ci si augura, di incontrare le personalità a rischio. Però l'unico rischio vero, se mi è consentito evocare altra colonna sonora, e contora Sicilia con l'autonomia, fottio pure a mezzia. L'unico rischio vero resta uno, ed è lo statuto speciale d'autonomia, che è l'acqua dove stagna la mafia e la mafia dell'antimafia. E questa benedetta Margherita si sfoglia soltanto così: è mafia o è mafia dell'antimafia? Il dito del Corriere indica nell'imbarazzo il presidente di Confindustria Sicilia, ma in Sicilia l'antimafia di potere, sostenuta dal battage di regime, fosse pure l'Arena di Giletti o lo stesso Corriere, ha avuto da sempre una sola luna, un solo regista, che è il padrone assoluto del Partito Democratico, nonché dispensatori di patenti di legalità, ed è... cambiamo musica... ed è... gente buona, gente tinta, il senatore Beppe Lumia, non citato dal Corriere. Ah, però l'hai citato tu, scusa, quindi... no? Anche il sindaco di Palermo, anche il sindaco di Palermo l'ha citato ampiamente, insomma, adesso, anche Claudio Fava, sono in molti. Vabbè, vai con la tua bolla, Mario. Andiamo, va. Isn't it funny? I like to dance when I'm on my own, whenever it's sunny, yeah. You know I don't wanna stay at home, my dreams almost every night, and I'ma be down with Miss Marple for life. Hey, it's the incidental things that makes me who I am. Beh, la guerra era... stamattina io ho detto vabbè, vuoi fare tu, ha fatto lei, fai tu, una bici Mind Gap, non male, senti. Vabbè, allora, perché voglio andare da Panama al Viagra? E tu mi dirai cosa c'entra. Invece c'entra moltissimo. Una delle più grandi fusioni della storia industriale, in questo caso farmaceutica, cioè quella tra Pfizer e Allergan, è saltata, è andata a carte 48 dopo un intervento del tesoro americano. E sai perché? Perché la fusione aveva sotto, ovviamente, come spesso capita in questi casi, d'altronde i commercialisti servono a questo, una botola per far sparire un po' di tasse. Come? Pfizer avrebbe spostato il proprio domicilio fiscale in Irlanda. Delaware? No, in Irlanda, molto più raffinata. In Irlanda, perché Allergan ha là una sede. Questo avrebbe comportato un vantaggio fiscale inaccettabile per il tesoro americano, che ha, diciamo, messo in guardia sull'operazione, che non si sarebbe potuta fare così. Alla fine Pfizer ha rinunciato, segno che in realtà c'era anche l'intenzione, appunto, di fare un po' di risparmio fiscale, ed è saltata un'operazione da 160 miliardi di dollari. Per questi casi, oltre 370 miliardi di dollari di fusioni e acquisizioni non sono già stati fatti in America. Però fisco controlla. È molto interessante. Canzoniere. Tu, fior della mia pianta, percossa inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amore. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Ilaria è morta dopo aver ingerito la droga sintetica MDMA. Voleva provare l'amore per il mondo intero. La morte di Lamberto Lucaccioni, il sedicenne di Città di Castello, che si era sentito male dopo aver assunto una pasticca di ecstasy sciolta nell'acqua mentre ballava sulla pista della discoteca Cocorico di Riccione. Eravamo strafatti, abbiamo visto i mostri, non so perché, ma l'abbiamo ucciso noi. Una violenza inaudita e inspiegabile. Sempre più spesso la cronaca racconta le conseguenze dell'abuso di alcol, fumo e droghe. Ecstasy, anfetamina, eroina, LSD, ancora crack e yabba. Droghe storiche e nuove sostanze fai da te. Create e vendute senza conoscerne gli effetti. Violenza inflitta agli altri e morti da sballo in discoteca. Il recupero è lungo e difficile, segnato da sofferenze e ricadute. La dipendenza, infatti, si trascina tra onnipotenza e abbandono. Ci sentivamo Superman, parlano i protagonisti dei centri per tossicodipendenti, confessioni e reticenze, fughe e vittorie. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Abbiamo il telefono, Cristina da Torino, per il canzoniere Credo. Cristina, buongiorno. Buongiorno, dottor Minori, che piacere. Piacere no, mio, grande piacere, mi dica tutto. Ma sai, io l'ho conosciuta giovanissima qua alla Crocetta. Addirittura, allora. Siamo amici sì. D'infanzia. È bello ancora sempre, complimenti, okay. Bravo. Grazie. Bravissimo. Bene, bene. Allora, okay. È pianto antico di Giosuè Carducci. Sì. Giusto. Ah. Grazie. E adesso cresciuta cosa fa a Torino? Ho fatto l'insegnante di lettere. Bene. Ok, buon lavoro. Grazie. Buongiorno, dottor Minori, buongiorno, buon lavoro a lei. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, febbraio 2016. La gastroenterite da crociera. Le crociere negli ultimi anni sono esplose. Si calcola che tra il 2008 e il 2014 ci sono stati 73 milioni di passeggeri nelle navi da crociera. Ma anche nelle navi da crociera c'è qualche problemino sanitario. E distintamente c'è quello delle gastroenteriti. La infezione del virus è un norovirus, è un tipico problema delle navi da crociere. Ma io dico tipico perché è l'unico problema importante. Da questo articolo si desume che solo lo 0,18% dei 73 milioni di passeggeri e lo 0,15% dei 28 milioni di membri dell'equipaggio hanno avuto sintomi tra il 2008 e il 2014 di gastroenterite da norovirus. Non solo, ma tra il 2008 e il 2014 i casi sono scesi da 27,2 casi per 100.000 giorni di crociera a 22,3 casi per 100.000 giorni di crociera. Quindi piccoli numeri, piccolissimi numeri, ulteriormente diminuiti a farci fede che possiamo andare tranquillamente in crociera e che certamente questa riduzione è data dall'impegno dei membri dell'equipaggio per riportare immediatamente a avere evidenza della malattia e quindi implementare subito delle terapie e evidentemente anche averci delle precauzioni igieniche generali che ci garantiscono che se vogliamo andare in crociera ce la possiamo divertire senza preoccupazione. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per voi o per noi oggi? Una canzone per chi conosce il combattimento della vita e può solo giurare compagnia. Arisa, Controvento. Io sono qui, ascoltare un sogno non parlerò. Se non ne avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento.